X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i due marò della Brigata San Marco, il 15 febbraio 2012 erano a bordo di una petroliera italiana con il compito di garantire la sicurezza del carico e dell'equipaggio dagli attacchi dei pirati. Al largo di Coce, ancora in acque internazionali, i marò sparano contro un peschereccio indiano. Un mercantile italiano, Enrico Alexi, avrebbe aperto il fuoco contro un peschereccio, uccidendo le due persone a bordo scambiate per pirati. Lo Stato Maggiore della Marina Italiano comunica che gli uomini della sicurezza avevano respinto un attacco di pirati, ma la petroliera, su richiesta della Guardia Costiera indiana, attracca al porto di Coci. Sono stati prima condotti a terra e poi sarebbero stati arrestati i due militari italiani accusati di avere sparato ed ucciso due pescatori. Iniziano delicatissime trattative diplomatiche. Tre mesi dopo, l'alta corte del Kerala concede la libertà su cauzione ai due fucilieri con l'obbligo di firma giornaliero. E il 20 dicembre Salvatore Girone e Massimiliano Latorre tornano dalle loro famiglie con una licenza di un mese. Faccio fatica a rendermi conto che finalmente respiriamo l'aria di casa, della nostra amata Italia. Nel frattempo, in India, la Corte Suprema decide che i due marò saranno giudicati a Delhi da un tribunale speciale e la situazione si complica. Ai due fucilieri viene concesso un altro permesso per tornare in Italia e votare per le elezioni politiche. Ma solo 9 giorni dopo, i marò sono in volo per Delhi con la garanzia che non rischiano la pena di morte. Il governo indiano smentisce, il sottosegretario Staffan de Mistura afferma che c'è invece un'assicurazione scritta del governo indiano sulla non applicabilità della pena di morte nei confronti dei due fucilieri. Il ministro degli esteri Terzi annuncia: non posso più far parte di questo governo e annuncio le mie dimissioni per le seguenti motivazioni. Primo, le riserve da me espresse sul rientro dei marò in India non hanno prodotto alcun effetto, visto che la decisione è stata un'altra. Secondo, sono solidale in modo completo ai nostri due marò e alle loro famiglie. Dopo 8 mesi, i due marò e le loro famiglie stanno aspettando di sapere cosa ne sarà del loro destino. Al loro fianco Staffan de Mistura, e trapela dai giornali indiani ancora una volta il rischio della pena di morte. Buongiorno. Da un incidente che sembrava si risolvesse in poco tempo, questa vicenda è diventata un affair infinito, un unicum nella storia delle relazioni internazionali. È un problema che non si riesce a risolvere e non si capisce perché dalle acque internazionali i marò sono andati in quel porto. Da lì è nata un'odissea senza fine e due marò sono prigionieri da più di un anno. 800 24 00 24 per chi vuole telefonare, sms 349 238 6666. Staffan de Mistura è l'uomo che gestisce per l'Italia questo caso. Ecco, lei ha seguito tutta la trattativa, ma intanto perché la nave italiana che stava in acqua internazionale ha attaccato in quel porto? Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a voi tutti. Io prima di tutto voglio premettere che in questo momento non vorrei entrare nella dietrologia per un semplice motivo: quando si è in una regata, e questa è una difficile regata, una tempesta, è meglio parlare di cosa è andato male e chi ha preso le decisioni sbagliate dopo che si è arrivati in porto, per un semplice motivo, perché gli indiani, particolarmente l'accusa, osserverà tutto ciò che diciamo e dirà: vedi, gli italiani loro stessi ammettono che hai fatto un errore. Detto questo, le posso dire che nel momento in cui l'incidente avvenne, io non ero coinvolto fino al 21, quindi no, certo. L'ho ricostruito per lo so bene, ma volevo solo sapere perché siamo andati in porto. Beh, era necessario per un atto di collaborazione, immagino, ecco. e di ingenuità. Perché da parte indiana fu annunciato pubblicamente, abbiamo oramai i rapporti, che avevano fatto una furbata perché avevano chiesto alla nave italiana... Insomma, hanno fatto un trucco per farli rientrare, questo sostanzialmente. Ecco, ma noi siamo cascati. Siamo cascati nel trucco. Senta, ma questa trattativa comunque oramai sembra una tela di Penelope. Lei la vede questa fine oppure no? Non solo la vedo, ma voglio... Certo, che lei voglia, lo credo. E No, ma la vedo anche perché non è nell'interesse dell'India vedere una continuità di quello che comunque è un caso unico nel quale noi abbiamo degli ottimi argomenti. Tutto ciò è avvenuto in acque internazionali. Naturalmente, no? Infatti questo è il punto che ci chiediamo, perché siamo usciti dalle acque internazionali, ma il rischio della pena di morte è un rischio reale, chiedo scusa, oppure è un rischio virtuale? Puramente virtuale. Il governo indiano ha dato per iscritto un documento che io ho qui davanti a me, sì. Me lo guardo continuamente, ci sono state dichiarazioni a parte il ministro degli esteri indiano davanti al proprio Parlamento, il caso non si pone. Questo non vuol dire che in termini mediatici o addirittura in termini teorici, visto che la polizia indiana ha questo anche come elemento, che ogni tanto è risolto. Insomma, lascia uscire questa ipotesi. Ecco, però questo documento che lei ha davanti esattamente esclude, c'è un'assicurazione del governo indiano sul fatto che non c'è il rischio di pena di morte, questo sta dicendo? This case would not fall in the category of matters which attract the death penalty. Punto a capo. Ok. Senta, ma adesso però questa vicenda sta incrociando le elezioni egiziane, è un argomento che può rendere più difficile o ritardare questo diciamo la soluzione del caso? La risposta è sì, temo di sì, perché abbiamo una elezione che si avvicina in termini mastodontici in India, certo. In aprile dell'anno prossimo, voteranno per un mese intero, sono 1.200.000.000 di persone. E quindi ci vorrà pazienza ancora, molta pazienza. Beh, pazienza ma determinazione anche, e francamente anche fretta, perché noi non molleremo nel momento in cui comincia finalmente a chiarirsi il capo d'accusa. Quello che ci serve è capire il capo d'accusa. Ecco, ma il capo d'accusa è chiaro o no? È chiaro o no questo benedetto capo d'accusa? Prego? È chiaro o no questo benedetto capo d'accusa? Lo sapremo solo quando esce. Noi per adesso non si sa niente. Quello che sia. Senta, tutto. Un'ultima cosa, dottor De Mistura. Il ministro Terzi comunque si è dimesso su questa vicenda, vuol dire che qualcosa è stato sbagliato? Io non posso giudicare il ministro Terzi, lei può immaginare. Certo, mi ricordo che lui nella Repubblica, il giornale Repubblica, disse giusto lo strappo, ora protetti, non mi dimetto. Poi il giorno dopo, quando io ero in India, si dimise. Lascio lui spiegare i motivi. Va bene. Una cosa è certa, da parte del governo italiano fu deciso che andava mantenuta la parola. Ed era la parola data non soltanto... Che sarebbero ritornati. Bene, la ringrazio moltissimo. Questa naturalmente è la versione ufficiale. Vi convince oppure potevamo agire in un modo diverso, Mario? Allora, insomma, perché in quei paesi il diritto... non è proprio il diritto, come già da noi è suscettibile di molte interpretazioni. E come vedi lì non sappiamo il capo d'accusa, cioè è vero, ed è passato un anno. È vero che c'è un impegno scritto per una non applicabilità della pena di morte, però a me resta sempre il dubbio, perché dice, perché dal punto di vista virtuale, ma sai che il virtuale in quei posti diventa, certo, anche il reale poi, per cui. E poi l'altra cosa è che io non sono sicuro che sia stata una buona idea quelli di rispedirli in India. Insomma, non... Beh, se c'era stato l'impegno, però... Pietrangelo, appunto, non lo so. Pacta sunt servanda, sì, per me. Ma li fai e con poi, chi li rispetta. Ma l'India è l'India. L'India non è certamente un paese che difetta in diritto. Noi abbiamo sbagliato, abbiamo avuto un atteggiamento anche culturalmente sbagliato in questa vicenda. Io vorrei ricordare come il 3 febbraio del 1998 un aereo dell'esercito americano tranciò il cavo della funivia del Cermis. Sì. Morirono 20 persone. Gli italiani non furono in grado neppure di prendere le misure di quanto fosse accaduto sul teatro della strage. Ecco. L'Italia non ebbe neppure la possibilità di dare una motivazione ai parenti delle vittime di quella strage. Beh, questo questo è un parallelo per dirti che il rapporto è sbagliato, nel senso che l'India non è sicuramente un paese un da quarto paese. Mondo no, e anche dal no. punto ecco, di vista diciamo del linguaggio diplomatico è una delle più grandi democrazie del mondo. Non ho detto questo, solo che è un agglomerato da parte nostra c'è stato un errore di fondo, pensare di avere a che fare con dei selvaggi. Ma no, è evidente. Ma guarda, sappiamo benissimo come veniva raccontato dai giornali, specialmente dai giornali di destra, no, con un atteggiamento perfino razzista. Simone da Verona dice la legge italiana vieta l'estradizione di chi che sia verso uno Stato dove vige la pena di morte. I nostri politici hanno rimandato in India in Marò violando la legge. Io non lo so se è stata una violazione di legge, però. Ma loro, avevano l'assicurazione scritta, quindi qua, questo diciamo è un accordo. Su questo posso anche dire ok. Il problema è che c'è questo margine di incertezza. Sì. Che insomma in diplomazia è tollerabile fino a un certo punto, perché quelli sono servitori dello Stato italiano, ecco. E tu li devi difendere. Se applichiamo dato la parola, naturalmente certo, è complicato. Non ci sono dubbi, però io su questo sono un po' americano, perdonami. Nessuno dei nostri Germis, l'esempio del Germis è nessuno dei nostri deve essere lasciato a terra, cioè li recuperiamo tutti, perché noi lasciamo lì con questo margine di incertezza sulla vita, mica su una. Sì, però gli abbiamo detto tornano per votare. Non so se il mercanteggiamento funziona. Guarda, non ne ho idea. Poi posso dire c'è un vulnus di fondo, e cioè l'idea che due rappresentanti della elite militare italiana, stiamo parlando dei Marò. I Marò sono quanto di meglio si possa immaginare la tradizione militare italiana. Stiamo parlando di quella bandiera che è la bandiera perfino di Corto Maltese, giusto per intenderci. Vabbè. Voglio dire, è la bandiera del comandante Borghese, insomma c'è una grande tradizione. Io non capisco, e nessuno mai è riuscito a spiegare bene, come mai si trovassero dei Marò in una situazione in cui non c'è un teatro di guerra e soprattutto proteggevano cosa? Una bandiera battente proprio ufficialmente lo Stato italiano o quella di un privato? Mi sembra ben strano questo fatto che dei militari, dei Marò, quindi la creme dell'esercito italiano, debba essere utilizzato per funzioni che di solito vengono affidate ai cosiddetti contractors. Dunque, noi abbiamo sentito delle versioni ufficiali, abbiamo fatto questa prima parte di discussione, ma al telefono abbiamo Maria Grazia Coggiola, che è collaboratrice dell'ANSA, che vive a Delhi, tu vedi Marò tutti i giorni, come stanno? Intanto ciao. Buongiorno. Come stanno? Beh, loro, come si sa, vivono nell'ambasciata, esattamente vicino alla residenza dell'ambasciatore, sono stati predisposti degli alloggi per loro, lavorano negli uffici dell'addetto militare, quindi hanno una giornata. Ecco, ma l'atmosfera lì com'è intorno a loro? L'atmosfera c'è attenzione oppure no? Sì, no, c'è attenzione, perché la comunità italiana qui a Delhi è anche molto vicina, nel senso che ci sono, insomma, c'è un gruppo di persone che stanno intorno a loro. Insomma, che se ne occupano anche psicologicamente, diciamo, no? Sì, certo, no, c'è anche un'assistenza alla domenica, anche di solito vanno alla messa, quindi c'è anche un supporto, diciamo, dal punto di vista religioso. Il posto dove stanno, l'ambasciata, è anche gradevole, diciamo, è la parte più bella di Delhi. Vabbè, quindi stanno bene. Ma la sensazione sono prigionieri. Beh, questo è chiaro, questo non c'è dubbio. Questa situazione, questa cosa della pena di morte che è risaltata fuori, Stefano Mistura ha detto non è possibile, ha letto la carta, per cui questo non è. Insomma, è una boutade mediatica o ha qualche consistenza, almeno vista da lì? Ha molta consistenza. La carta esiste, è stata veramente una dichiarazione in Parlamento del 22 marzo. Il problema è in realtà che ha l'India, secondo me. Sì. Perché tutto sta nell'utilizzare questa polizia che sta indagando sul caso, che si chiama National Investigation Agency, detta NIA, e che è un po', come, come diceva il dottor De Mistura, la Digos indiana. Sì, e quindi? Questa polizia è nata nel 2008 ed è una polizia antiterrorismo che può applicare solamente certe leggi. Non è una polizia che si occupa di un semplice omicidio come è stato quello, come è stato, come si pensa che sia quello, insomma, sì, come e quindi? Sono accusati, diciamo. E quindi tra le leggi che deve applicare nello statuto suo c'è una legge che è una legge contro la pirateria marittima, la quale in caso di omicidio prevede la pena di morte. Vabbè, quindi questo c'è un problema di interpretazione, giriamo sempre intorno e a questa l'India? Motivazione. No, questo è un po' importante, ma è sì. Perché l'India ha scelto di applicare questa legge e anche di avere questa polizia? Perché questa legge si applica alle acque internazionali. Ho capito, quindi, certo, e quindi anche... Esatto. Anche il fatto che sia capitato nell'acqua internazionale non risolve certo. Il problema. Va bene. Se la politica indiana, un'ultima domanda. Dicevamo, stanno per esserci le elezioni. Si gioca la partita anche questa vicenda di Marò? Ha un rilievo oppure ce l'ha solo per noi e lì non gliene importa niente a nessuno? No, ha un rilievo enorme perché qui, come si sa, la leader del partito di maggioranza del congresso è un'italiana, Sonia Gandhi. E quindi tutte, insomma, i riflettori sono su di lei e tutte le cose che riguardano gli italiani. E quindi lei deve fare un'attenzione particolare. Certo, non è una certo. Situazione fortunata per loro. Assolutamente no. Ti ringrazio, ci risentiremo quando la vicenda andrà verso la soluzione. Intanto a Virus ha parlato la moglie di uno dei due Marò. Sentiamo una brevissima dichiarazione, Virus di Rai 2. Mio marito è abbastanza tranquillo perché mio marito e Massimiliano sono due militari innocenti. Questo nuovo governo che ha avuto ovviamente questa vicenda come doverla risolvere, come punto principale, insieme a tanti altri che ovviamente riguardano le varie difficoltà che coinvolge l'Italia, c'è anche il caso di Salvatore Massimiliano. Se suo marito venisse condannato, lei spera che possa passare la condanna in Italia? Qual è la sua speranza? Io sono convinta, ma questo ripeto è solo esclusivamente mia, che il governo italiano farà di tutto affinché Salvatore torni insieme a Massimiliano in Italia. Ma si scontra anche con una campagna elettorale che c'è in India con anche attraverso una condanna, perché loro rischierebbero di averla, però faranno di tutto affinché loro rientrino in patria. Lei pensa che verranno condannati in India? Probabile. Ecco, abbiamo al telefono... No, è caduta la linea. Questo. Allora, Mario. Guarda, io ho sentito le dichiarazioni della Coggiola, sentita la moglie, valutato il caso, io dico che questi due nostri ragazzi rischiano grosso, anche se non fosse la pena di morte, rischiano una condanna grave, che dovrebbero poi scontare, vediamo dove. E, insomma, non mi pare una pagina gloriosa della nostra diplomazia, né ieri e né, mi dispiace, anche oggi, cioè vedo margini di incertezza gigantesche. Gigi da Milano, buongiorno. Buongiorno. Senta, io così volevo porre un quesito. Qualora fossero morti due magari pescatori di Mazara del Vallo intenti a pescare in acque internazionali e magari l'accusa cadesse su magari su una motovedetta tunisina, l'opinione pubblica italiana come avrebbe posto il problema? Si sarebbe posta nello stesso modo difendendo magari questi militari tunisini dicendo che trattandosi di acque internazionali non dovevano essere giudicati in Italia, oppure l'atteggiamento sarebbe stato diverso? Quindi lei dice gli indiani fanno bene, sostanzialmente, se ho capito la domanda. Che dici, Mario? L'Italia ha un deficit di sovranità, quindi sicuramente non avrebbe saputo gestire una situazione come questa, al contrario. L'Italia non è stata in grado di dare giustizia alle vittime della strage del Cermis e quindi si meraviglia quando deve affrontare delle situazioni così delicate che offendono la dignità della creme dell'esercito italiano, quali sono i Marò, e soprattutto si concede delle cosiddette digressioni di alterigia politica, come le dimissioni dell'allora ministro Giulio III di Sant'Agata, che in quel frangente, invece di assumersi la responsabilità di andare fino in fondo su una questione delicata, cercò gli applausi per garantirsi magari un futuro politico dopo la fine del governo Monte. Però gli è andata male, mi sembra. Gli è andata male perché il dio dei soldati sa vendicarsi, gli è andata male perché veramente non riesce più a garantirsi uno spazio di agibilità politica. Ma detto ciò, è vergognoso che il governo italiano non abbia saputo gestire dall'inizio questa vicenda. Beh, questo effettivamente è proprio una cosa che ha creato, problemi di ogni genere. Su questo punto, Giovanni, proprio tre secondi, l'opinione pubblica è abbastanza compatta, cioè lo vedono tutti che c'è un buco nero in questa storia che non è chiara. La gestione è stata sicuramente sbagliata. Comunque l'abbiamo sentito. Tutto questo, in ogni caso, ha a che fare anche, sembra strano, ma ha a che fare con il mondo dei pirati che infestano quei mari. Ecco, ma chi sono questi nuovi pirati? Cosa nascondono realmente i pirati di oggi? Ed ecco a voi il pirata dal pugno di ferro, il capitano Giacomo Uncino! Uncino, Uncino, Uncino! Ma vecchio pesce cane, ci sono 632 dobloni segnati in quel tuo registraccio di vampiro? Ho preso un galeone. Oro? Ma che oro, neanche un po'. Ostaggi. Pirata barba nera, anche la vita del pirata è fatta così. Dopo la pubblicità parleremo con Germana Tappero Merlo, esperta in sicurezza internazionale, proprio del ruolo dei pirati in quei mari. Pubblicità. Mix 24. Siamo sempre in diretta, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, sono le 9.32, 34 secondi. Parliamo di pirati, l'abbiamo detto prima della pubblicità. Chi sono oggi i pirati che dallo stretto di Malacca, al Golfo di Aden, al delta del Niger, saccheggiano le navi mercantili? Ecco, come mai nella letteratura, anche nel cinema, sono sempre stati in realtà dei simpatici mascalzoni? Merito di Salgari, buttafuoco? E anche perché gli storici si sono messi in mezzo, perché hanno visto in loro l'avanguardia del capitalismo, l'avanguardia dell'idea di un'impresa che prescinda dalle regole, e quindi pirata non a caso è diventato un complimento tra gli imprenditori. Soprattutto tra i finanzieri. Soprattutto più tra i imprenditori, tra quelli che comunque del denaro ne fanno un uso spregiudicato. Esatto. Mario? Ma sì, un uso spregiudicato, però tieni presente che i pirati servirono anche in maniera più o meno chiara le varie corone d'Europa, che nei mari poi facevano. Infatti nella guerra tra il sangue e l'oro noi stavano sempre dalla parte dell'oro. La storia è sempre un po' colonizzatrice, per colonizzare devi usare qualcuno. Qualche strumento, pirati, qualche avanguardia. I pirati ogni tanto venivano usati anche per questo. Germana Tappero Merlo, esperta di sicurezza internazionale, buongiorno. Ecco, questi sono i pirati della fantasia, quelli di cui abbiamo parlato, ma i pirati che operano in quei mari, un po' l'abbiamo detto, ma a quali logiche rispondono? Buongiorno Minoli. Buongiorno. Allora, le logiche ormai sono esclusivamente di carattere criminale, cioè ormai appurato che non rispondono a logiche, per alcuni erano terroristi, che altre di agganci con gruppi, magari jihadisti, parlo per esempio dei pirati somali, ecco, dell'area del Golfo di Aden. Invece in generale è ormai assodato che sono logiche criminali che vanno dalla piccola criminalità del sud-est asiatico, quindi il furto delle merci sulle navi, a quello del greggio, per esempio nel delta del Niger viene proprio rubato dalle navi nei porti il greggio, per poi essere rivenduto nel mercato nero. Ecco, ma per capire anche grande anche criminalità organizzata, nel senso che per esempio i pirati somali, ormai è stato appurato i collegamenti con la criminalità organizzata per traffici ben più importanti, dai rifiuti tossici, dallo smaltimento dei rifiuti tossici al traffico di armi, droghe, e quindi si parla esclusivamente di logiche criminali, ecco, di organizzazione internazionale. Ecco, ma dottoressa però per capire meglio l'impatto economico della pirateria, quante merci circolano, stiamo parlando di quella zona della Malacca, di Aden, del Niger, quante merci circolano in quelle zone e quante navi sono state attaccate, per esempio, quest'anno? Guardi, il 90% del commercio mondiale di merci è via mare, considerando poi soprattutto potenze economiche come la Cina utilizza grandemente i mezzi navali anche per il trasporto di materiale strategico, per esempio il greggio, e il 50% di questo commercio passa in quelli che vengono definiti i key outpost, cioè punti caldi come appunto lo stretto di Malacca, Suez e il golfo di Aden. Quindi il rischio piratesco si concentra in questi key outpost, e anche se ultimamente si è spostato molto l'asse della sicurezza verso il Golfo di Guinea, cioè si sono registrati volte assalti alle navi, nell'ultimo anno circa 150 assalti di navi con esclusivamente furti di merci, e quindi 300 membri anche di equipaggi presi in ostaggio, che sono in ostaggio, ecco. Senta, dottoressa Tapparo, ma circolano però voci che i pirati in realtà rispondono anche a logiche, lo diceva già anche un po' prima Mario nella storia, di politiche internazionali per controllare gli hub sottomarini nei quali corrono le reti dell'informazione, cioè una specie di militarizzazione delle autostrade dell'informazione. È possibile? Ma guardi, questa è una delle letture degli osservatori più critici del fenomeno del contrasto della piratesco con le forze militari navali, ossia la presenza di forze militari navali. Noi abbiamo partecipiamo sia come NATO che come Unione Europea al pattugliamento delle acque somale, per esempio, per alcuni viene visto come una militarizzazione sia delle rotte commerciali ma anche di questi cablaggi, perché diciamo sono le stesse rotte, lo stesso tracciato. Di conseguenza questi osservatori più critici del fenomeno piratesco affermano che non è possibile continuare a pattugliare e militarizzare quindi le rotte, ma risolvere la pirateria in maniera diversa. Insomma, quindi, in parte è anche vero. Quindi si dà un po' credito a questa visione, che però appunto è un pochettino complottista, però ha anche una parte di verità. Vabbè, quindi insomma, un po' vero, un po' no. È risolvibile più da terra che sui mari. Ormai chi studia il fenomeno piratesco sa che è possibile contenere la pirateria risolvendo i problemi nei paesi. E quindi non c'è questo controllo, diciamo, questa militarizzazione delle vie della comunicazione sotterranea, sott'acqua. Diciamo che non dovrebbe esserci. Non dovrebbe esserci, vabbè, mi sembra che... Il motivo è altro, ma se si dovesse continuare è ovvio che si dà a questa interpretazione. Grazie, dottoressa Merlo. Ecco, come sempre, naturalmente, abbiamo sentito realtà, fantasia, si sfiorano nel mondo della tecnologia digitale e virtuale. Ecco, Mario Pietrangeli, ma è una lettura possibile questo, è fantascienza? Beh, posso dire? Vai. Mentre ascoltavo pensavo, così come misero sotto contratto i mafiosi all'epoca dell'invasione della Sicilia gli americani, sì, signori americani, adesso fanno la stessa cosa con i pirati. Quindi tu sei per l'idea che c'è questo controllo? Ma certo che c'è, figuriamoci, non è realismo, ma è cinismo, figuriamoci se poi vale l'etica su queste cose, è soltanto a parole, quindi mettono sotto contratto i pirati così come fecero con i mafiosi, tant'è vero che tra i padri della patria italiana dovrebbero mettere quei bei faccioni di mafiosi che prepararono l'invasione americana. Mamma, questo purtroppo è proprio vero, Mario. È assolutamente vero, è storia. Concordo con Pietrangelo sul controllo delle vie del mare, è evidente. Leggevo una statistica adesso, in realtà hanno portato via 146 milioni nel 2011 di saccheggi, quindi l'entità della cosa è assai piccola, mentre è importante controllare le rotte, questo sì, è evidente. Sono buono come il pane. Io un po' meno, però dolce, dolce come il miele. Mario? Pietrangelo, questa? No, scusa. È un dialogo dolce, insinuante, ghiotto, ancorché tu mi preoccupi. No, tu sei innamorato, ma quello sempre, però no, bisogna accompagnarlo innamorato con l'ironia. E poi c'è questo gioco di contemplazione del cielo. Stai parlando in codice. Sta parlando del suo libro. Chi è? Dimmi il nome. Dai, il nome. Giorgio Conte. Ah, vabbè, adesso abbiamo svelato una novità. È davvero propizio il giorno per il Toro e per il Capricorno. Sappilo. Sappilo. Tu, lei che ascolta. Sono stato invaso dalla Nutella di Buttafuoco. Ma che Nutella, è zenzero e miele, zenzero e miele, altro che Nutella. Sembri Veltroni. Bolle. Allora, salutiamo Walter, dai che... Sì, l'amico. E ci ascolta. Allora. Speriamo. Allora, l'attualità che fare? Poltronissime in gioco, perché il vero tema adesso è questo. Adesso certo, l'8 dicembre certo, ci saranno le primarie, Renzi presumibilmente le vince. Pensa se non le vince. Cosa succede? Vabbè, o pensa se vanno in pochi alle primarie. Questo è probabile. È vero problema, questo potrebbe essere un problema. Poi a quel punto si farà che cosa? Una verifica. La verifica con o senza il rimpasto, ancora questo non l'abbiamo capito. Io posso dare solo il classico rumor di palazzo, che è importante, la poltrona più a rischio è quella del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni. Perché le cose sono evidenti, non funziona bene il coordinamento a quanto pare tra il ministero. L'abbiamo sentito tutti faccia a faccia, chiunque viene qua dice vabbè. Non va bene, insomma. Quindi vediamo, potrebbe essere sostituito, però non subito, io penso. Se sarà sostituito, potrebbe anche migliorare le cose, perché voglio dire, un ministro poi. Questo non lo sappiamo. Non si nasce imparati, si dice dalle mie parti. Quindi vale la pena però di notarla, perché le cose si stanno, come dire, un po'. Mettendo male sotto questo aspetto. Anche perché il pasticcio del limo. Salamini. Allora, avete presente Silvio Berlusconi? Quindi avete presente tutto lui, quello che è successo in queste giornate, in questi momenti? Poi passano le notti a riunirsi e bisogna anche comprendere. È uscita perfino tutta un'analisi dettagliata sulla depressione di Dudu, che sarebbe non il mitico Dudu, ma il cagnolino, la cagnolina, non ho mai capito. Ne sentivamo la mancanza. Se è mascolo, se è femmina. Comunque, c'è sto problema che lui si deve candidare. Comunque, dove? E ci sono le europee. In dove? Italia non si può. Dove? Allora, dove? Prima di hanno tutto... Hanno scelto il paese. Sì, deve imparare questa canzone. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest. Ora... Dove quindi? Quindi Budapest. Avanti ragazzi di Buda. Non vorrei allarmare la Digos a questo punto dopo l'ascolto di questa canzone. Però giustamente mi ha fatto notare un avvocato, Ruggero Razza, mi ha fatto notare che questi scienziati di Forza Italia, a forza di parlare della candidatura di Silvio Berlusconi, scateneranno qualche magistrato che immediatamente lo arresta. Ai, ai. Senti qua, bolla. Campana giapponese. Pacifico. Il vicepresidente Joe Biden è in Giappone per rassicurare Tokyo nella vicenda delle isole contese con la Cina. E bisogna stare attenti. E poi passiamo a un altro continente. Central America, perché? Perché qua bisogna occuparci di quella che è la mattanza col sombrero. Cercavano due poliziotti scomparsi e hanno trovato 64 cadaveri in 35 fosse clandestine nello stato di Jalisco, nel Messico occidentale. È la guerra del narcotraffico. Che se non ne... fa prigionieri. No, non fa prigionieri, è una cosa terribile. E infine... Aridai e Cordrone minore. Ah beh, è il drone, oramai c'è un drone per tutti. Perché Amazon in realtà, più che spedire i libri, caro mio, spedirà i droni, più droni per tutti, vuole occupare il mercato consumer di questo strano prodotto che prima o poi compreranno tutti. Cioè, non ho capito, i libri consegnati con i droni? Sì, questo era il progetto originario, ma in realtà ci sono i droni che consegneranno a casa tua direttamente. Tu vuoi un drone e te lo fai, basta. Un dronino, ognuno ha il suo dronino. Carta di credito e drone, questo è il vero progetto di Jeff Bezos. Soldi. Dio, i soldi. I pirati. No, sono soldi. E perché soldi? occhio alle quotazioni dell'oro. Sono praticamente ai minimi dal 2011, ha perso il 36%, scusate. Aveva guadagnato tantissimo però negli ultimi 15 anni. La cavalcata dell'oro, caro Giovanni e cari ascoltatori, è sempre da guardare con attenzione perché è un indicatore di come va l'economia. Ora è bassa perché si attendono tutti una ripresa. In novembre, guarda caso, ha avuto il calo più brusco degli ultimi 35 anni, gli analisti dicono che calerà ancora e poi comprare. A quel punto compri basso e speri che vada alto, che risalga. È così. La notizia, lo ricordo, la notizia in 3D è stata curata da Sara Tardelli. Dopo la viabilità parliamo di televisione di qualità con il professor Giorgio Simonelli. Viabilità. Mix 24. Professor Giorgio Simonelli, professore di storia della televisione all'Università Cattolica. Allora, professore, dov'era il canone ieri sera? Velocissimi, però prima Mario e Pietrangelo. Anna Karenina. Tu? No, io ho visto il Napoli. Hai visto il Napoli? Ma questa è la storia d'amore. Vedi che non capisci niente. Tu, a forza di confonderti con la Nutella, che è di Moretti e non è di Veltroni. Ma tu non hai. Che no, è di Moretti, non capisci la poesia di Gawain quando sei. Tu ti confondi tra Veltroni e Moretti. Professore, si inserisca perché non ce la faccio. Dov'era il canone ieri sera? D'accordo con Buttafuoco, anche se sì, che ha le sue ragioni. Anna Karenina per la tradizione, perché è una opera proprio da servizio pubblico, la linea dello sceneggiato. Poi un giorno spiego Buttafuoco perché si chiama sceneggiato questo e non l'altro. Benissimo, dopo glielo spiegherà. Oggi abbiamo pochissimo tempo. Dello sceneggiato nobile, con qualche riserva, perché forse sì, poteva approfondire un po' di più il testo, anche perché ci sono dei modelli molto globali. C'è una seconda puntata questa sera. Aspettiamo la seconda puntata. Speriamo che ci sia maggiore profondità, perché per ora mi sembra un po' illustrativo e con un ammodernamento un po' discutibile. Tutto non tiene conto di un'ultima esperienza molto interessante, quella fatta da Stoppard sostanzialmente, perché l'opera dello sceneggiatore, l'Anna Karenina cinematografica dell'anno scorso, che aveva un grande colpo di genio, quello di ambientare tutto in teatro. Esatto, quindi ne parlavamo stamattina. Siamo un po' nella tradizione, però un'opera, come dire, un pochettino fatta. Anna Karenina meritava forse uno sguardo più originale, però aspettiamo stasera. Grazie professore. Francesco Arlanca, che è lo sceneggiatore della fiction, nella scena del ballo voi avete cambiato la mazurka di Tolstoi con un pezzo cantato da Nicole Kidman in Moulin Rouge, è per rendere tutto più moderno? Essenzialmente sì, la scelta non è stata mia personale, naturalmente è stata una scelta del regista e della produzione, perché erano consapevoli che quello era il momento fondamentale dell'innamoramento fra Anna e Vronsky, che è incontrato per la prima volta soltanto poche ore prima. Ecco, ma che lavoro di sceneggiatura ha fatto per adattare il romanzo originale alle esigenze della fiction? Anna Karenina è stato adattato numerosissime volte, più di 20 volte fra cinema e televisione, perciò mi sono chiesto come trovare una chiave nuova, diversa, affrontare questa nuova sfida. L'obiettivo è stato quello di andare a raccontare quello, parti del romanzo che nelle altre età di trasposizione erano state lasciate in ombra, in particolare quelle che sono delle vere e proprie coprotagoniste del romanzo insieme ad Anna Karenina. Quindi più le coprotagoniste che la protagonista. E che cosa ha scelto? Perlomeno alla pari. Ma è in particolare che cosa ha scelto di mettere in luce di questa Anna Karenina sua? Il fatto che non si tratta di un romanzo pessimista e tragico esclusivamente. Molto spesso quando uno immagina Anna Karenina già immagina una storia d'amore tragico in cui Tolstoi racconta una visione piuttosto pessimista dell'uomo e delle relazioni sentimentali. In realtà, leggendo il romanzo senza questo precondizionamento, si scopre che in realtà Tolstoi conclude il romanzo in modo più ottimista. Il desiderio era di mostrare come nell'intendimento di Tolstoi la vicenda tragica di Anna Karenina era la parte oscura per mettere in luce l'altro, la parte più luminosa. Cioè, quindi mettere in luce la difficoltà ma anche la felicità, in qualche modo, del rapporto giorno più giorno in un rapporto di coppia piuttosto che la forza della passione, questo sostanzialmente. La grandezza di Tolstoi è che non è mai manicheo. Non è mai manicheo nel presentare i sentimenti umani, nel presentare le relazioni, nel rappresentare la politica, la società. È molto realistico, per questo è un classico e sarà eterno. Le grandi verità convivono, insomma. Esatto, convivono e in fondo una visione puramente pessimista che vede come unico vero amore autentico la passione disperata è una visione che sicuramente Tolstoi non condivideva e che se la si sposa non si fa un buon servizio al romanzo. Per finire, soddisfatto dell'esito? Molto soddisfatto, grazie alla collaborazione con una squadra veramente invidiabile di gli artisti, gli attori, da Vittoria Puccini a tutti gli altri, hanno fatto un lavoro straordinario. Christian Duguay, questo regista canadese che si è messo a disposizione di una coproduzione europea, ha fatto un lavoro straordinario. Quindi una grande coproduzione europea. E soprattutto c'è da essere orgogliosi in quanto italiani di aver fatto da capofila ad una opera del genere. Grazie, grazie, auguri. Grazie a lei. Grazie, auguri. Grazie mille. Grazie. A presto. Vengo con te. Cosa? Non vi voglio. Io devo essere dove sei tu. Siete pazzo. Gli uomini come lui commettono delle infedeltà. Ed è una cosa vergognosa, ignobile. Però sappi che non significa niente. Per loro la moglie è sacra. È finita. Fra me e tuo fratello è finita. Li ho scoperti qui, nella nostra camera, nel nostro letto. Ballate con me, vi prego. Tu mi ami ancora? Che domanda? Rispondimi, mi ami ancora? Come puoi dubitare? No, non mi ami più. Ma certo che ti amo. Tu ti vergogni di me. Cosa dici? Io mi preoccupo di te, mi preoccupo di noi. Ti prego, resta. No, non posso. Quando ti rivedrò? Mai più. Questa sera la seconda puntata di Anna Karenina, ne riparleremo col professor Simonelli dopo il giornale radio. Torna Mix 24 con la storia, cura di Marina Milone. A Roma il 3 dicembre del 79 moriva suicidandosi il grande Alighiero Noschese, un camaleonte che per primo ha portato le imitazioni nel grande varietà televisivo, un artista affascinante ma anche un uomo pieno di misteri, di ombre, di inquietudine. A seguire un'intervista con Paolo Guzzanti. A dopo il giornale radio.